TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Segue l'iter per il ritorno delle province in Friuli Venezia Giulia. Oggi si è tenuta la seconda lettura alla Camera, ne seguirà un'altra al Senato e poi il voto. Intanto in Regione si lavora a definire le competenze dei nuovi enti. La Regione è pronta a entrare nella filiera elicotteristica dell'azienda Leonardo, leader nei settori difesa, aerospazio e sicurezza. Nello stabilimento di Ronchi dei Legionari vengono sviluppati principalmente velivoli senza pilota. Dalla passione per l'astronomia all'attività imprenditoriale, a Campo Formido l'azienda che installa planetari e osservatori astronomici, rivendendo e distribuendo telescopi. Gli scrittori incontrano i ragazzi delle scuole per parlare di libri e di questioni care ai giovani. Nella provincia di Pordenone, al via di programma Fuori città, la prosecuzione sul territorio di Pordenone Legge. Nuovi 10 ettari di paludi d'acqua dolce realizzati all'interno della riserva naturale Foce Isonzo. Presentato il progetto, cofinanziato dall'Unione Europea, che favorisce la presenza di animali e vegetali attualmente a rischio. Avvia il 15 ottobre a Udine la 26esima edizione di Ein Prosit. Oltre 150 gli appuntamenti della manifestazione enogastronomica, dalle cene ai laboratori, degustazioni guidate, protagonisti anche famosi chef. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Dario Ronzoni e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Alla Camera dei Deputati a Roma si è tenuta questa mattina la seconda lettura della riforma dello Stato speciale della Regione per reintrodurre le province. A questa ne seguirà un'altra in Senato e poi il voto previsto per fine ottobre. L'iter era iniziato su iniziativa del Consiglio regionale nel 2023. Il Friuli Venezia Giulia verso la reintroduzione delle province, terzo atto. È da poco terminato il dibattito alla Camera dei Deputati sulla riforma dello Statuto Speciale della Regione, legge costituzionale la cui modifica quindi richiede 4 letture a maggioranza assoluta, 2 per ogni ramo del Parlamento. La Camera aveva già dato il suo primo via libera il 24 ottobre del 2024, in Senato il primo voto c'è stato il 27 maggio scorso, oggi la seconda e ultima lettura di Montecitorio, ne resta un'altra, la seconda e ultima da parte di Palazzo Madama. Relatrice di maggioranza la deputata Simona Bordonali della Lega, presente in aula il ministro delle riforme Calderoli. Era stata un'iniziativa del Consiglio regionale nel 2023, la richiesta al Parlamento di fare una marcia indietro sull'organizzazione degli enti locali. Le province qui erano state eliminate nel 2016, furono introdotte le UTI, le unioni territoriali intercomunali, enti intermedi non elettivi, posti tra i comuni e la regione, territorialmente più piccoli delle precedenti province. Province che ora tornano, le 4 previste da sempre, ma la modifica allo statuto consente la creazione di enti di area vasta, oltre a conferire alla regione la competenza di scegliere il sistema elettorale. Le province, come in passato infatti, saranno elettive. E già nel maggio scorso, quando il Senato aveva espresso il suo primo voto, l'assessore regionale alle autonomie locali Roberti aveva garantito che intanto in Friuli Venezia Giulia si sta lavorando alla preparazione dei testi necessari alla costituzione dei nuovi enti, al trasferimento delle prime competenze, alla definizione della legge elettorale. La norma stabilisce anche un numero fisso di componenti del Consiglio regionale, 49. Attualmente i membri sono in funzione della popolazione residente. Fra gli interventi in aula, quelli dei parlamentari regionali De Monte di Forza Italia e Matteoni di Fratelli d'Italia. Nel suo breve intervento il ministro Calderoli ha detto che quanto è avvenuto è espressione di leale collaborazione fra Stato e Regione, aggiungendo: se reintroduciamo le province parliamo di province, perché a me viene l'orticaria a sentir parlare di enti di area vasta. Il voto, previsto per il pomeriggio, in realtà slitterà di qualche settimana. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: un uomo è stato ritrovato morto in un lago di sangue questa mattina a Trieste, sotto la loggia del Teatro Verdi. Lo hanno scoperto alcuni passanti. Si tratta di un 60enne con problemi psichiatrici. Con molta probabilità, viste le condizioni del corpo, era morto già da ore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo le ricostruzioni, sarebbe un caso di suicidio. A Tavagnacco questa mattina un camion frigo è finito contro la vetrata di un negozio appartenente a una nota catena friulana di abbigliamento e l'ha sfondata. L'incidente è avvenuto intorno alle 6:30 e potrebbe essere stato provocato da un colpo di sonno dell'autista, che non ha riportato ferite gravi. Danni ingenti invece al negozio. Sul posto i vigili del fuoco e il personale sanitario. Un altro intervento per un camion a Trieste, in questo caso bloccato in via Valerio davanti all'università. Per cause ancora in corso d'accertamento, il tir è rimasto bloccato con il carico in bilico. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto articolato e il carico costituito da bramme d'acciaio. 2 anni fa, l'orrore del 7 ottobre, sull'anniversario, una nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco. Il 7 ottobre deve rimanere un monito, un richiamo alla coscienza di tutti contro l'indifferenza e la violenza. I consiglieri di maggioranza sottolineano che serve oggi uno sforzo collettivo per riaffermare il diritto alla sicurezza, al dialogo e alla pace, principi che l'Italia e l'Europa devono difendere con fermezza e senso di umanità. Solo distinguendo sempre tra aggressori e aggrediti con onestà intellettuale potremo compiere reali passi in avanti in termini di consapevolezza e maturità, conclude così la nota. La pagina del tempo, il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste e a Udine 17 gradi, a Pordenone a Gorizia 16, a Piancavallo e Forni di Sopra 13, a Tarvisio 12,5 gradi, a Tolmezzo 12, a Sappada 4, sul Monte Zoncolan 9,5 gradi, sul Monte Lussari 6,5, a Lignano 16, a Grado 14,5. Le previsioni per oggi vedono cielo in prevalenza poco nuvoloso, variabile sulla fascia alpina, sulla costa venti deboli di brezza. Sull'aeroporto regionale oggi si registra una nota della FIT-CISL, la Federazione Italiana Trasporti. Trieste Airport sta vivendo una fase di grande crescita. Si è passati da 800.000 passeggeri annui a oltre 1.800, con un significativo aumento delle compagnie aeree operative e delle destinazioni raggiungibili. Il traffico passeggeri è quasi raddoppiato, così come il volume dei bagagli gestiti ogni giorno. Un successo che però non si riflette sull'organico. Il numero dei dipendenti è rimasto pressoché invariato. Questo ha portato a un fortissimo carico di lavoro con turni estenuanti, un utilizzo eccessivo di straordinarie flessibilità che coinvolge sia i lavoratori full time che quelli part time. Particolarmente critica per la FIT CISL è la situazione legata al boom dei voli charter croceristici, che comportano attività operative intense quasi ogni sabato e domenica, rendendo complicata anche una minima conciliazione tra vita lavorativa e vita privata. FIT CISL chiede un intervento immediato da parte dell'azienda, servono nuove assunzioni e una riduzione concreta dei carichi di lavoro per evitare che la situazione diventi ingestibile. Il rischio di disservizi è reale e imminente. La divisione elicotteri della società italiana leader nei settori difesa, aerospazio e sicurezza ha presentato a Pordenone, nella sede di Confindustria Alto Adriatico, il progetto finalizzato a rafforzare la filiera nazionale nell'ambito dell'elicotteristica e a valorizzare le imprese del territorio. In regione Leonardo è presente con lo stabilimento di Ronchi dei Legionari, dove vengono sviluppati principalmente velivoli senza pilota. La regione ringrazia Leonardo ed è pronta a cogliere questa opportunità per favorire il ritorno in Italia di produzioni strategiche. Mettiamo a disposizione un ecosistema solido fatto di strumenti di supporto concreti, visione strategica e una forte connessione tra pubblico e privato. Un sistema la cui formazione punta alle competenze e al capitale umano per le filiere strategiche e la rete delle PMI è in grado di garantire affidabilità e grande qualità delle produzioni. Questo è il commento degli assessori regionali Alessia Rosolen e Sergio Emilio Bini. Andiamo a Campoformido, dove da 25 anni opera un'azienda specializzata nell'installazione di planetari e osservatori astronomici, un'attività familiare fatta con passione che si sta espandendo. Nel 1999 Marco Cosmacini e Marzia Muradore erano studenti di fisica a Trieste, lui appassionato di astronomia, lei di biologia e microscopi. Oggi sono i titolari cofondatori di SkyPoint, 12 dipendenti, a Campoformido, un fatturato da 7 milioni di euro e commesse da tutto il mondo. Installano planetari, osservatori astronomici, sono rivenditori e distributori di telescopi. Una storia di imprenditoria all'americana, tutto inizia con un magazzino da 10 metri quadrati in affitto, per vendita per corrispondenza di strumenti per guardare le stelle. Praticamente al mattino andavamo a lezione, al pomeriggio rispondevamo alle telefonate dei clienti, dice Marzia. Qui dentro siamo tutti astrofili e appassionati di scienza, le fa eco Marco. Per 8 anni lavorano sodo, marito e moglie, nel 2007 è il primo dipendente, nel frattempo entrano in contatto con l'azienda statunitense pioniere della computer grafica, collaborava con la NASA ma anche con Star Trek. Iniziano coi planetari portatili per scuole e aziende, un trolley trasportabile che alloggia al suo interno proiettore e computer accompagnato da una cupola gonfiabile. Poi i planetari, usati soprattutto in ambito didattico, da scuole a musei, diventano sempre più grandi, spazi immersivi anche per film, concerti ed eventi. I puntini sul mappamondo in mezzo al mare, costellato da ordini e commesse installate nella sede principale di Campo Formido, sono navi da crociera, dove sono stati montati planetari 8K in 3D e telescopi gestiti dall'astronomo di bordo. Se sui planetari si lavora all'80% all'estero, la percentuale si ribalta sulla rivendita dei telescopi, dove il mercato è principalmente italiano. I nuovi smart scopes guidano l'osservazione e hanno aumentato la curiosità verso le stelle di scuole e giovani, permettono di ricevere l'immagine direttamente sul cellulare. Tra i progetti su cui si sta lavorando, rendere accessibili i planetari a persone con disabilità, ipovedenti o ipoudenti. Per svilupparli però servirebbe più personale, ma è difficile, conclude Cosmacini, tra le più giovani generazioni, trovare chi è disponibile a viaggiare. Sono molto sedentari, conclude, hanno poca voglia di scoprire e questo è un peccato perché si può scoprire il mondo e lo spazio soprattutto da giovani. Campo Formido, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Dall'inizio dell'anno scolastico è entrato in vigore il divieto di utilizzo del cellulare per gli studenti delle scuole secondarie, divieto che si applica durante l'intero orario scolastico e che ha lo scopo di migliorare concentrazione e apprendimento. Abbiamo fatto il punto nella nostra trasmissione del mattino. Buongiorno Regione. Sono passate alcune settimane senza il cellulare a scuola e le ragazze e i ragazzi delle superiori si stanno chiedendo se il divieto sia stata una misura utile o no per evitarne la dipendenza o la solitudine in un mondo o anche in una scuola ormai sempre più digitalizzata. I ragazzi e gli stessi insegnanti però hanno notato che fuori dalle lezioni si comunica di più e si socializza di più. Giacomo Trevisan, formatore e coordinatore regionale di MEC. Si è persa invece un'occasione, secondo molti insegnanti, che riguardava l'utilizzare questi dispositivi, le potenzialità di internet in alcuni aspetti didattici. Quindi qui c'è una cosa che in questo momento si è persa e su cui magari capire come recuperarla, soprattutto ricordando che i ragazzi cambiano dalla prima alla quinta superiore, quindi anche riconoscere questo cambiamento, il bisogno di autonomia, di strumenti anche per usare bene queste tecnologie cambia e andrebbe riconosciuto. Quello che manca in questa fase è forse una riflessione fatta insieme ai ragazzi sull'utilizzo responsabile delle nuove tecnologie e sull'intelligenza artificiale. Lo segnalano gli esperti di MEC, l'associazione di Udine, che da anni promuove percorsi di consapevolezza critica sui media, partendo dalla prima infanzia con il progetto regionale dei pediatri custodi digitali, per accompagnare i bambini, ma anche i genitori, gli insegnanti e anche la comunità ad un uso corretto ed equilibrato dei dispositivi. Quando arriviamo alla superiori si passa proprio a dare strumenti concreti. In questo senso cito il progetto Educare all'informazione nell'era dell'intelligenza artificiale che insieme a dirigenti scolastici e docenti ha come obiettivo proprio accompagnare i ragazzi nell'utilizzare correttamente le fonti di informazione. Completamente cambiato il modo di informarsi, sia noi come adulti che riuscire a riflettere su questo e aiutare i ragazzi a trovare strumenti per usare efficacemente queste opportunità eccezionali che però richiedono anche molto senso critico, molta consapevolezza e questa la si costruisce insieme. Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dopo i giorni del festival a settembre, Pordenone Legge inaugura il programma di Fuori Città Scuole, che da oggi coinvolgerà oltre 2.000 studenti delle scuole superiori della provincia di Pordenone, con incontri tra i ragazzi e gli scrittori che si confronteranno su libri e idee. Pordenone Legge continua in 13 comuni fuori città con un cartellone diffuso di incontri letterari dedicato a giovani lettrici e lettori delle scuole del Friuli Occidentale. Si parte oggi a Villa Varda di Brugnera con Alessandro Barbaglia, scrittore premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021, che in dialogo con Odette Copat presenta il suo libro Scusa, ma resto qui. Alessandro Barbaglia. Racconterò loro la storia di Luna e di Zeno, che sono i protagonisti di Scusa ma resto qui, il mio romanzo, che parla di bullismo e di come è possibile all'interno della scuola prendere posizioni che non siano quelle dei bulli, pur continuando a far parte della classe e del gruppo però ci si può dissociare e prendere altre decisioni. Il programma Fuoricita Scuole coinvolgerà fino al 21 novembre oltre 2.000 studentesse e studenti della provincia di Pordenone. La curatrice Valentina Gasparette. L'idea è quella di portare gli autori vicino ai ragazzi, di proseguire il festival nei comuni partner di Pordenone Legge per questo programma Fuoricita nelle scuole, che parte da oggi, da Brugnera, con Alessandro Barbaglia, e arriverà ai primi di novembre con Luigi Garlando, che presenterà in anteprima la biografia di Sandro Pertini. Tanti incontri, tante storie, la grande storia che si intreccia con le piccole, i grandi romanzi, ma anche l'attualità con l'intelligenza artificiale. Ci sarà Nello Cristianini che parlerà di intelligenza artificiale ai ragazzi, e poi Chiara Carminati, Marta Palazzesi, e poi gli autori proprio più vicini ai ragazzi come Davide Morosginotto e come Guido Sgardoli, per esempio. Insomma, tanti appuntamenti per loro, con l'idea di portare gli autori e i libri e un momento di condivisione e di incontro vicino ai ragazzi e vicino alle scuole. Brugnera, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si chiamano fondi magri, sono i nuovi 10 ettari di paludi d'acqua dolce realizzati all'interno della riserva naturale Foce Isonzo, un progetto cofinanziato dall'Unione Europea che favorisce la presenza di animali e vegetali attualmente a rischio e che aumenterà la connettività ecologica tra gli ecosistemi della riserva. In mattinata la presentazione a Staranzano, sentiamo l'intervista all'assessore all'ambiente di Staranzano, Roberta Russi. I fondi magri sono un terreno che si trova in una zona adesso all'interno della riserva, ma prima che noi l'acquisissimo era a fianco della riserva, le zone dette Cuscinetto. Sono 10 ettari che sono stati acquistati con dei fondi pubblici e sono stati rinaturalizzati, che significa che è stato ripristinato lo status quo precedente, quindi prima della bonifica. Paludi e aree naturalizzate che accolgono più di 340 specie di uccelli, sia migratori sia stanziali. Perché rinaturalizzare questi terreni? Sono stati realizzati all'interno di questi terreni paludi d'acqua dolce che vanno a favorire la presenza delle specie migratorie che abbiamo in riserva. È un supporto in più alle aree già della riserva, che aiutano tutte le specie che arrivano nell'area ad avere uno spazio di tranquillità e a gestire anche i campi circostanti a una progressiva rinaturalizzazione anche ambientale, cioè ad accogliere quelle che sono le realtà della riserva anche nelle aree circostanti. Ci sono anche ricadute per il territorio? Le ricadute sicuramente sono prima di carattere ambientale, sicuramente poi paesaggistico e per finire con una ricaduta di turismo ambientale e sociale. L'aumento delle zone umide in tutto il pianeta è caldeggiato sia dall'Unione Europea sia da grandi stati per andare a combattere i cambiamenti climatici. Territorio, cultura ed enogastronomia. Udine, al via il 15 ottobre la 26esima edizione di Ein Prosit. Previste cene, degustazioni guidate, laboratori, incontri che vedranno anche protagonisti i migliori chef di fama internazionale. Questa mattina la presentazione. Una sintesi prestigiosa degli apici della cucina e dell'enogastronomia mondiale in un palinsesto internazionale, con Udine e il territorio regionale al centro dell'interesse. Saranno oltre 150 gli appuntamenti della 26esima edizione di Ein Prosit, che si terrà dal 15 al 20 ottobre. La grande novità di quest'anno sarà la mostra assaggio Io sono Friuli Venezia Giulia Blanks, da sabato 18 a lunedì 20. Nella tenso struttura di Via Mercato Vecchio, oltre 70 aziende friulane presenteranno il meglio del territorio, focalizzandosi sui vini bianchi. Ci saranno le consuete cene, degustazioni guidate, laboratori di incontri che vedranno protagonisti i grandi chef e i migliori cuochi di fama internazionale. Claudio Tognoni, direttore del consorzio turistico di Tarvisio e Sella Nevea. L'obiettivo di questa manifestazione è quello di coniugare i prodotti della regione Friuli Venezia Giulia, i vini, i prodotti dell'agroalimentare con l'alta cucina internazionale. Alta cucina che quest'anno uscirà anche dai ristoranti e salirà su dei truck in centro a Udine, proponendo anche la cucina tradizionale di oltre 22 paesi rappresentati dagli chef internazionali. una grande cucina alla ricerca del dettaglio che animerà gli eventi con le proposte di grandi chef internazionali che si confronteranno con quelli del territorio. Massimiliano Sabinot, chef di Udine. È un evento che ci fa crescere, perché confrontarmi con un grande chef internazionale può essere solo che una bellissima cosa. E un evento così a Udine non si era mai visto. Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Le sfide odierne della professione forense e il ruolo imprescindibile dell'avvocatura nella tutela dei diritti dei cittadini sono stati i temi al centro della presentazione del volume La giustizia raccontata, le sfide dell'avvocato tra presente e futuro di Luca Ponti e Luca De Paoli, che si è svolta in Senato su iniziativa di Assocomunicatori. Il libro ripercorre passato, presente e prospettive future dell'avvocatura, raccontati attraverso lo sguardo diretto di due professionisti che, con decenni di esperienza condivisa, hanno attraversato diversi contesti e giurisdizioni. La convinzione degli autori è che fare l'avvocato non è una semplice professione, ma una vocazione che richiede competenze tecniche, sensibilità nell'approccio psicologico con il cliente e una profonda capacità di ascolto. All'incontro hanno partecipato anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, l'avvocato Antonio Di Pietro e Simonetta Mattone, membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, e Tommaso Cerno, direttore del quotidiano Il Tempo. Era l'ultima notizia del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Samantha Gon, per la parte tecnica in regia Marco Ferrito e Samuel Montalto. Da parte di Dario Ronzoni ed Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.